denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ti piace la nostra sigla natalizia? Questi arrangiamenti, queste preziosità non che abbiamo inserito. Non ti hanno neanche chiesto la minima consulenza musicale per realizzare la nuova sigla. Ma guarda cosa vuoi, si dice che nessuno è profeta in patria e infatti questo è proprio quello che succede. Però vengo, non è stato carino non vengo considerato. Di Peter Bescapè che ce l'ha così mandata in onda all'improvviso senza aver chiesto minimamente un pareruccio, qualcosa. Esatto. L'anno prossimo però prepariamoci per tempo. Sì, magari anzi. A Pasqua te la lasciano fare la sigla di due di denari con le uova di Pasqua. Secondo me nemmeno a Ferragosto. Cara Deborah, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Piatto ricco, mici ficco. Oggi ben due temi di approfondimento a due di denari. Sempre sì. Due noi, perché intanto il Sole 24 Ore richiede di fare un punto della situazione sui mutui che molto magari bene. Abbiamo sottoscritto quest'anno o che sottoscriveremo l'anno prossimo se il 2018 ci porterà bene, ci porterà tanto lavoro e qualche soldino in più per comprare la casa dei nostri sogni. Qual è il miglior finanziamento da fare? Non ce lo dice solo Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Buongiorno e benvenuto intanto. Buongiorno agli ascoltatori. Ma ce lo dice anche una pubblicazione di un bel colore. Guarda, mostro a chi ci sta seguendo su Facebook, grazie a proposito per tutti coloro che ci seguono su Facebook, anche in differita, perché ho scoperto, Deborah, molti poi vanno a cercare in rete il programma, la puntata. Il podcast è passato di moda, dice, adesso vanno a ricercare i video. Abbiamo con le sia belle il facce. Podcast sul sito www.radio24.it, ma anche via Facebook potete, seguendo la pagina di Due di Denari, recuperare il programma se magari tra le 11 e mezzogiorno, che so, facevate altro, le compere, i regali di Natale. Buttavate giù la pasta. Avevate da lavorare ad altre cose, non potevate concentrarvi su Due di Denari. Allora io, a beneficio appunto dei social, mostro adesso in anteprima mondiale, ma direi anche planetaria, a questo punto universale, sì, esatto. Galattica, questo che è il fascicolo della serie Nuovo Risparmio. Fuori di Celia lo stiamo offrendo tutti i giovedì con il Sole 24 Ore, offrendo un termine scorretto, 50 sì. centesimi più il quotidiano, e sono dei volumetti appunto di una sessantina di pagine nei quali di volta in volta si affrontano i vari temi connessi al risparmio. Domani il volumetto che vi proponiamo, il fascicolo che vi proponiamo, è dedicato appunto al mutuo. Esatto, in realtà c'è l'universo casa che viene trattato in questa guida, perché si passa dalle regole per l'acquisto della nostra prima abitazione al mattone come investimento, l'immobiliare alternativo, le cosiddette pertinenze, cantine, box, perché ci si può comprare. La pertinenza, sai, è come il vento. Esatto, la pertinenza, la famosa Tari, chissà com'è finita quella vicenda lì, sì, ci eravamo è tutto tornati. Sospeso, la tassa rifiuti, so che ti tormenta, Deborah, sì, ma bisogna sì. aspettare. C'è la scelta del mutuo, la gestione del patrimonio, gli strumenti finanziari alternativi per finanziare un investimento appunto nel mattone. Insomma, Roberto Anedda, chi più ne ha più ne metta. Questo 2017 per l'ambito mutui, secondo il vostro osservatorio, come si chiude? Poi faremo anche l'anticipazione, Mauro, del secondo tema che tratteremo a Due di Denari. Ah, si chiude positivamente, perché dal punto di vista delle erogazioni c'è stato un incremento, insomma, almeno fino agli ultimi dati di ottobre-novembre rispetto all'anno precedente, non marcato, perché parliamo di pochi punti percentuali, dovuto anche al fatto che via via si stia riducendo il peso della SURR dopo tutti i cambi mutuo che sono stati fatti negli ultimi due anni, e con tutti i risparmi anche fortunatamente per le tante famiglie che hanno potuto cambiare mutuo. Però si è ripreso invece man mano il mutuo d'acquisto casa, a seguito anche un po' di una mini ripresa dell'immobiliare, che dopo 10 anni di cali sia di prezzi che di volumi Beh, di però vendite, il recupero ai valori di 10 anni fa mi sembra ancora distante. No, assolutamente. Diciamo che abbiamo cominciato quest'anno a vedere, e anche un po' l'anno scorso, a rivedere un segno più nelle compravendite. Cioè sì. Si è tornati credo che sul siano mercato. La metà del 2007-2008, erano rispetto arrivati 856.000. Rispetto ai massimi siamo quasi un terzo addirittura. E poi ovviamente molto a macchia di leopardo, perché anche i prezzi in certe zone stanno tuttora calando, ma magari erano saliti troppo prima. C'è molta offerta sul mercato, ma c'è da dire che di tutti gli immobili che ci sono disponibili, molti rimarranno inevitabilmente invenduti. Facciamo finta che tutto ciò sia una buona notizia e che sia il presupposto per un investimento ragionato, no Mauro? Che cosa diciamo che forse stiamo cominciando a risalire, questa potrebbe essere la considerazione che magari esploriamo questa mattina con Roberto Anedda. Mi dicevi che però dobbiamo parlare anche di un altro argomento. L'app social, perché a breve arriveranno i primi assegni per i beneficiari appunto dell'anticipo pensionistico classico, quello social, quello finanziato dal Ministero dell'Economia, quello che non passa attraverso l'erogazione di un prestito da parte di banche, appunto, finanziarie, per cui l'INPS ci ha detto che sono pronti ad erogare i primi assegni che arriveranno entro il 22 dicembre e noi stamattina rifaremo un po' il punto della situazione. Imminente, quindi è appena prima di Natale sotto l'albero arriva almeno l'AP social. Con tutti anche gli arretrati di chi deve riceverlo. Posso, fare una precisazione sull'AP invece, quella volontaria, quella libera? Se la Tari è la mia ossessione, l'AP volontaria è la tua. Ma sì, perché allora quella lì decorreva, cioè decorre in realtà dal 1 maggio quello scorso, però quello che è già passato, però ancora ci manca un pezzettino. Allora adesso il pezzo che ci manca sono gli accordi con le banche e le assicurazioni. Ci hanno assicurato, no, non a me personalmente, a tutti noi, che questa settimana si chiude, siamo a posto, però ancora noi aspettiamo questa buona notizia. Poi, se arriverà, saremo i primi ad essere contenti a fornirla. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. È un nostro must, questo Marco lo prepara sempre di... Marco Lombardo, non si sforza neppure di cercarlo. No, gli piace e questo deve sempre mettere, perché vabbè, sì, allora, per qualcuno aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, che certo è un impegno finanziario che ci portiamo dietro, come anche noi pontifichiamo nel nostro editoriale legato alla guida, per un sacco di numeri di anni, per un elevato numero di anni, per cui bisogna, come dire, stipularlo con sale in testa, no, Roberto Anedda, ricordandoci che a prescindere dall'entusiasmo con cui questa operazione si fa, usciamo dalla banca con il direttore di banca che ce l'ha erogato, siamo tutti contenti, qualche volta dimentichiamo che poi questo impegno ce lo portiamo appresso per almeno 15, 20 e anche qualche più anni in più. Sì. Infatti, quali sono adesso, come dire, le durate massime che monitorate voi con Mutuo Online? Come durate si arriva ai 30 anni, perché oltre questa durata ormai... Ce ne sono ancora quindi di richieste per queste durate? Complessivamente il 70% dei mutui erogati va dai 20 ai 30 anni e comunque la componente 25-30 pesa per un buon 25-30%. Questo perché consente una durata così lunga di avere ovviamente un importo di rata più piccolo e quindi ce lo si può permettere. È più sostenibile il mutuo, Mauro, no? Allora, guarda, sentiamo però cosa ne pensano gli ascoltatori. Ricordiamo che i numeri per mettersi in contatto con Due di Denari sono quelli abituali, ma ve li forniamo ugualmente molto volentieri. 800240024 se volete intervenire in diretta, parlare con noi, parlare con Roberto Anedda di Mutuo in questa prima parte. Più tardi invece parleremo di APE, anticipo pensionistico social. Oppure vi piacciono di più gli SMS, vi piace di più WhatsApp? Abbiamo il numero 349-238-6666. Non vi piace neppure questo, ma volete un'email? E va bene, abbiamo anche quella. Incontentabile. 2 di denari, è scritto a lettere, lo dico sempre, 2 di denari@radio24.it. Aspetta che c'è un ascoltatore che ha mandato un messaggio piuttosto lungo e l'ultima parte è: rispondetemi per favore, grazie. Allora, parla di surroga. Damiano da Roma, la surroga è quel procedimento grazie al quale noi possiamo spostare proprio il nostro mutuo da una banca ad un'altra e quindi cambiarlo completamente, naturalmente cercando e avvantaggiandoci di condizioni migliori che la banca che ci accoglie può offrirci. Damiano ci chiede se nella surroga, Roberto Anedda, è obbligatorio aprire il conto corrente con accredito dello stipendio. Eccole qua le banche che come al solito chiedono... qualche cosa, con uno sforzo in più da parte nostra. Mi scuso per il sospiro, però insomma abbiamo già visto comportamenti così, come dire, commercialmente spinti. Disinvolti? Vogliamo spinti. Dire così. E non è la spinta gentile del premio Nobel per l'economia ma, d'Italia. Insomma, scusi Anedda, prego. No, per carità. Purtroppo è una brutta abitudine, diciamo, che è una delle classiche richieste questa, quando si deve aprire un mutuo. Ma devo dire non solo per surroga, anche chi si presenta a una banca che non sia la propria o nella quale non abbia già un accredito di stipendio, quasi sempre si vede richiedere l'accredito di uno stipendio, di una pensione, di una qualche entrata regolare, insomma, in funzione di una presunta maggiore garanzia di flussi, eccetera, che nel momento in cui è comunque tutto tracciato, uno ha un obbligo, eccetera, nessuno avrebbe voglia poi di avere una pendenza di rate non pagate con qualunque banca, anche se non c'è accredito lo stipendio. però è un vizio che si fa fatica a sconfiggere perché non c'è un obbligo di nessun tipo, l'unica cosa importante è questo, che quantomeno Damiano possa andare a dire, poi magari non la spunta, però dice guardate che io non sono obbligato. Ma infatti questo mi sembra un po' il punto su cui magari non c'è comprensione da parte nostra, cioè che stiamo dall'altra parte dello sportello, Deborah, che ci vengono fatte delle offerte che sono anche legittime, cioè è legittimo che ci dicano beh, ma se noi sì le concediamo la surroga, le piacerebbe anche avere esatto, il conto, per noi, oppure dire molto onestamente, per noi è più facile anche gestire a debito della rata, tutto quello che vuoi, no? Però farlo passare come un obbligo di legge quando in non realtà lo questo è obbligo non è corretto. No, non è carino, diciamo. Damiano completa la sua segnalazione. La banca mi ha detto che vuole l'accredito per visionare e verificare i miei conti e quindi fare così un punto della situazione sulla sua capacità poi di restituzione evidentemente del prestito. Terzo punto che segnala Damiano, veramente c'è un caso non complesso, secondo me anche molto diffuso. In realtà forse la banca è un po' indispettita perché questa surroga Damiano la chiede dopo un anno di sottoscrizione dal mutuo. Potrebbe ci sono dei limiti allora? Potrebbero esserci dei limiti? Ma di base no, diciamo che quello che è successo anche in anni passati con le surroghe, che con certi tra virgolette surrogatori seriali che si è un concetto che è stato inventato da Vito Lops, volevo surrogatore dire. Seriale Si è scatenata la corsa alla surroga nel momento in cui i tassi hanno cominciato a scendere ripetutamente e allora molti che erano nuovi allo strumento della surroga, cioè dopo aver surrogato, già si ingolosivano del fatto di poter passare un mutuo ancora, come dire, meno conveniente, ancora più conveniente. Sì. Chiaro che in questo caso c'è un po' la sprovvedutezza di chi si butta subito a cambiare mutuo senza capire qual è il trend del momento, del mercato, che lo possa portare a risparmiare di più. Quindi dico, a quel punto aspetto un attimo, pago, tengo il mutuo che mi costa un po' di più per qualche mese, perché poi in questo caso i tassi erano scesi in maniera veramente notevole in meno di un anno, e quindi aspetto di surrogare al momento giusto. È ovvio che quindi se ci si ripresenta, ovviamente sempre a banche diverse, di tre mesi in tre mesi, l'ennesima banca dice fanno il passaparola, dico attenzione che sta arrivando no, ma perché poi c'è il rischio di mettere in piedi, perché non dimentichiamo che la surroga è a costo zero per il cliente, ma per la banca è comunque un costo, esatto. Perché tutte queste operazioni da qualche parte il costo deve andare, certo. E quindi rischiare di mettere insieme tutta l'operazione per avvantaggiare un cliente che magari però dopo tre mesi, in maniera anche molto, come dire, leggera da un certo punto di vista economico, passa ad un'altra impulsivo banca qua. Sì. E quindi la banca dice aspetta, visto che sei un po' così, io stesso ci penso un attimo. In questo caso, essendo una surroga fatta un anno fa, se lui non aveva uno storico precedente di surroghe e se effettivamente con questa nuova surroga lui ha una possibilità di un risparmio oggettivo e sostanzioso rispetto alla soluzione precedente, certo. Ma insomma. Il dubbio della banca sembra un po' eccessivo. E onestamente, vista le predisposizioni del mercato tuttora, bravo, alle surroghe, alla terza domanda che ci indispettisce, andiamo da un'altra parte dove magari una banca un po' meno. Io voglio fare però l'avvocato del diavolo, cioè delle banche, e dire diavolone. Sì, ma se, come dire, hai surrogato, adesso usare questo verbo con questa disinvoltura mi mette quasi un po' a disagio. Che non suona benissimo. No, che poi vabbè, hai surrogato un anno fa, risurroghi di nuovo sei mesi dopo e poi chiedi di nuovo di surrogare. Magari la banca legittimamente può sospettare che ci siano dei problemi per questo signore per mantenere la rata, per mantenere il pagamento della rata, e quindi si voglia premunire, magari sono cambiate delle condizioni lavorative, delle condizioni economiche di quella famiglia, di quella persona, e allora dice fammi vedere qual è il diritto della banca di poter verificare, della banca che viene interpellata per l'ulteriore surroga, di verificare la situazione del cliente. No, allora la banca che concede la surroga è assolutamente libera nella scelta, e non dimentichiamo che per quanto si tratti di un'operazione di sostituzione da un certo punto di vista di banca per un mutuo già preesistente, a tutti gli effetti è un'operazione di mutuo nuovo per la nuova banca, e quindi la nuova banca fa comunque tutte le verifiche, comprese quelle reddituali che citava giustamente Mauro adesso, perché non solo è suo diritto, ma è suo dovere, da un certo punto di vista, anche per tutela sia dell'istituto bancario che dei suoi clienti. Ecco, se no creiamo altri NPL e qua non va bene. E quindi, un po' quello che dicevo prima, che ha sottolineato bene Mauro, a volte comportamenti troppo compulsivi o impulsivi di cambio continuo di mutuo rischia di passare un messaggio che magari non è quello, nel senso che uno ingenuamente insegue il risparmio ogni volta che gli si presenta davanti, dice, c'è un'occasione, perché non posso pagare di meno? però non si capisce a volte che non è che la banca è cattiva in quei casi lì, però sono io stesso che mi metto magari in una cattiva luce, in una posizione un po' sospetta. Qualcosa magari. Poi c'è da dire che insomma, sospetta la banca in modo legittimo, sì, cioè è un comportamento anomalo. Ecco, poi diciamo che la banca così ha tutti gli strumenti per verificare poi qual è l'effettiva situazione, se sta cambiando qualcosa, se il reddito è sempre lo stesso, se lui ha sempre pagato regolarmente. E quindi insomma a divenire a migliori, esatto, soluzioni. Allora, due ascoltatori che hanno raccolto come sempre il nostro invito di chiamare all'800 24 00 24 per loro domande. Io sentirei subito Alberto da Verona, perché fa tombola e lui con un piccione, come si dice, no, con una fava prende due piccioni e addirittura ben due domande per entrambi gli argomenti di stamattina. Alberto, le rispondiamo. Non so, Alberto purtroppo chiama da Verona. Peter Pescapetti, devo avvisare, Verona non è una città che in questo momento Peter ami ascoltare. Roberto, buongiorno Alberto. Qua il calcio sempre, buongiorno, sempre, sempre, buongiorno. Questa situazione quasi. Buongiorno e complimenti per la prestazione sportiva di domenica. Prego. Vabbè, dai, è andato bene. Era per il discorso del mutuo. Noi abbiamo per mio figlio abbiamo cambiato il mutuo da una banca a un'altra. Non le dico il nome della banca se vuole. O... Vabbè, ma come non se, è importante. Vediamo se è importante. Non è importanza. Allora, avevamo un mutuo di 30 anni, con i primi 10 anni a tasso fisso e gli altri 20 anni a tasso variabile. Mm-hmm. Dopo un anno abbiamo cercato un'altra banca. Questa banca ci ha offerto un mutuo fisso 25 anni e la rata è uguale. Quindi, certo. È stata una convenienza estrema. Certo. Sono quasi 40.000 euro risparmiati. Appunto. Il nostro collega Vito Lops ha scritto il libro Il Mutuo Perfetto, andando proprio a caccia di tutte le opportunità di mercato che ci sono, perché le banche sono in grado effettivamente di offrire delle condizioni che soprattutto si giocano, no, Roberto Anedda, sullo spread, sulla voce di costo che viene applicata e il ricarico praticamente sul tasso del finanziamento. Esatto. Però è possibile che addirittura ci sia una differenza così importante tale da poter permettere a questa famiglia di portare a casa un risparmio nel lunghissimo periodo ovviamente di 40.000 euro? Ma in realtà se si considera quella che è stata la situazione degli ultimi due anni, soprattutto quando i tassi sono arrivati al minimo assoluto, quindi l'anno scorso e primi di quest'anno, e subito dopo una situazione invece di crisi del sistema bancario in cui c'era difficoltà nelle erogazioni di mutui con spread e costo del denaro per le banche italiane molto più elevato, per cui anni 2012, 2013 e in parte 2014 i mutui che si sono comunque erogati, anche se meno ancora di altri anni, in quegli anni lì a tasso fisso andavano anche oltre il 5%, quindi passare con un mutuo magari di 25-30 anni come quello dell'ascoltatore, dopo uno o due anni, quindi ancora praticamente con tutto il mutuo, a dei tassi che erano praticamente la metà. Ma 40.000 euro in quel caso lì, probabilmente il suo tasso era un po' più basso, sono pochi, perché i nostri calcoli, le nostre valutazioni portavano a risparmi addirittura di 90-100.000 euro di interessi. Un'altra casa, dici, esatto. Compri, penso praticamente che... ci si ripagava il mutuo, se uno chiedeva, e parliamo di un mutuo di 120-125.000 euro. Bisogna essere attenti a quello che succede, insomma, leggere un po' i giornali, ascoltare Radio 24 e... ascoltare Due di Denari. Il mutuo fino a qualche anno fa era, come dire, quella... passiamoci anche questo termine, un po' zavorrina che ci si portava dietro, però magari per una decina d'anni, non oltre. Adesso, siccome dura tanti anni, è bene che si consideri l'idea che ci possano essere delle condizioni più vantaggiose da poter sottoscrivere e ricercare. Però bisogna impegnarsi, perdere un po' di tempo, chiacchierare un po' di più magari con la banca, anche se non lo facciamo volentieri, con tante banche... Sentirne più di una. Io vorrei dire, anche per... dobbiamo anche completare la domanda di Alberto, sì, perché c'era anche... Hai ragione, Deborah, perché c'era un'altra parte. Alberto è ancora con noi? Sì, ti sto ascoltando. Allora, l'abbiamo confortata nella sua scelta, che peraltro economicamente era già premiante, come si dice. Però lei ci voleva chiedere una cosa anche sull'ape social, quindi una domanda che useremo nella seconda parte. Più che la domanda, io sono del 1952, sì? 35 anni, 8 mesi versati, sì? 15 mesi di naia, perché sono stato uno di quelli, sì, che ha fatto 15 mesi. Sottufficiale. Nel 2012 dovevo andare in pensione, purtroppo con la Fornero mi ha saltato per un mese. Sì. Dunque io sono senza stipendio, senza lavoro dal 2012. Ho fatto domanda per l'ape social, me l'hanno scartata perché non... adesso ho fatto ricorso. Perché non mi ero iscritto a un ufficio di collocamento. Ma lei non è rientrato nella cosiddetta salvaguardia degli esodati? Perché no, tecnicamente ho sembrerebbe un caso di esodato. Ho fatto di tutto. niente da fare. Però è bello dirlo perché così si capisce com'è, sì, come vanno le cose. Ecco. In che settore lavorava, scusi, l'ultima? Io, commercio. Nel commercio. Va quindi bene, non settore la rimandiamo, che poteva non tutelato. Sì, l'app social io credo che purtroppo nel suo caso, disoccupato di lungo periodo, verificheremo poi nella seconda parte della trasmissione. Ci scriva il suo caso, Alberto. Se ce possibile. Lo mandi anche per email, se può, Alberto. Due di denari @radio24.it. Sì, me lo mando. Grazie. Grazie Alberto. Allora, sentiamo Francesco da Bari, poi vi leggo un messaggio di Mauro prima di andare alla borsa, ma ancora qualche minuto di tempo sui mutui ce l'abbiamo. Francesco, benvenuto. Buongiorno a voi. Io volevo fare solo una domanda. Io sì, nel 2005 ho stipulato un mutuo a tasso variabile. Sì. Ho resistito per un certo periodo, nel senso che si è preso pagare tutta la sì, l'ondata di rialzi. Ho iniziato a pagare ho iniziato il mutuo con 520 euro. È arrivato a 800, a 740. Mm-hmm. Adesso sotto i 500 pagando, minimo. Sì, sto pagando 446. Io voglio capire, adesso praticamente sto pagando 90 euro di interessi mensili e 300 di capitale. Voglio capire, mi conviene rimanere così i restanti anni? Quanto dura? Fare... Quanto dura, Francesco? Perché 25 anni l'ho fatto, mi rimangono, diciamo, se la testa di bua sono arrivato. Secondo me lei ormai sta andando quasi interamente a pagare la quota capitale. Sì. Allora, magari un tentativo può anche farlo, ma magari Si potrebbe fare un calcolo anche per vedere, insomma, a seconda dei parametri del tasso che ha, però obiettivamente avendo già passato, essendo al giro di boa della metà ed essendo in una fase in cui il variabile potrà godere ancora per qualche anno, sicuramente di Euribor molto contenuti, e certamente potrà avere ancora degli interessi molto bassi e probabilmente meno che se dovesse passare, anche se per la durata residua, a un fisso, perché non dimentichiamo che poi nel surrogare il mutuo riparte da zero, si ricalcola tutto il piano d'ammortamento, che è un po' complicato, è lungo da spiegare tecnicamente, ma nella pratica, nel ricalcolare da zero il piano d'ammortamento, si perde un po' qualcosa perché si ripagano un pochino più gli interessi all'inizio, mentre adesso l'ascoltatore ha delle rate, come ha già testimoniato lui, che mi sono molto corpose siano... in termini di capitale, ma meno di interessi. Mi colpisce che gli siano rimasti questi 90 euro di interessi ancora, insomma, secondo il mio calcolo mentale avrebbe però potuto considerando ancora considerando che sono 300 di capitale, è veramente un peso, perché all'inizio le rate sono due terzi o tre quarti di interessi. Io pensavo che fosse già più assottigliata questa parte degli interessi. Però stavo facendo il paragone con il mio, se posso dire... Ah, ma allora, va bene... Potevo dirlo, ma ci fermiamo un istante e puoi fare anche tutti i conticini. Io voglio dire questo a te e anche al nostro ascoltatore Francesco, che domani in questo volumetto che appunto diamo con il Sole 24 Ore c'è anche un utile specchietto fatto proprio sui mutui, tasso variabile, tasso fisso, a confronto le migliori 10 offerte, una delle tante cose che trovate proprio di servizio nella cosa del Nuovo Risparmio, nella collana Nuovo Risparmio. Poi una cosa che si può aggiungere sempre a proposito dello speciale. La guida vi ruba il lavoro, Anedda, visto, fanno pure loro le comparazioni. Ma tanto sapete che il nostro motore di ricerca è presente anche sul vostro sito, quindi noi siamo partner storici vostri, ci avete sempre supportati fin dall'inizio. Infatti volevo dire proprio quello, che in realtà al di là poi delle tabelle che vengono pubblicate, che poi inevitabilmente sono fisse, uno non riesce magari a riportarla al proprio caso specifico, anche negli strumenti di mutui online presenti anche sul sito del Sole 24 Ore è possibile proprio fare dei calcoli per capire rispetto alla propria situazione di mutuo quanto si può risparmiare effettivamente rispetto al proprio tasso che si sta pagando e quello che invece si avrebbe come surroga, quindi farsi anche un'idea un pochino più precisa della situazione piuttosto che doversi allora, un po' ipotizzare i conti. Intanto che voi decidete se surrogare o non surrogare, o questo è il dilemma, o rinegoziare, perché in realtà per alleggerire il peso del mutuo di strade ce ne sono tante, però noi oggi ci siamo concentrati su queste in particolare. Tutte legali. Due di denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai. Allora, il caso di Alberto da Verona ha creato un grande dibattito qui in studio, e naturalmente il dibattito adesso nel dibattito è stato coinvolto anche Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, il collega del Sole 24 Ore, che è uno dei massimi esperti, io direi europei, di APE non cioè è ancora di mondiale, non si vergogna a venire qua. No, non dico mondiale perché stiamo verificando quali altri esperti possono esserci in Asia e nel continente americano, però Per quanto riguarda l'Europa, Matteo è in grado di fare due puntualizzazioni sul caso di questa persona che è, tecnicamente l'avremmo definita un esodato, doveva, settore commercio, doveva andare in pensione, lo riepilogo a beneficio di coloro che si fossero messi solo ora all'ascolto. Allora Matteo, funzionava così, lui di lì a un mese doveva ritirarsi in pensione, ma arriva il decreto legge cosiddetto Salva Italia, riforma Fornero delle pensioni, quindi congelamento, rinvio, innalzamento dell'età pensionabile, insomma diventa quello che poi abbiamo chiamato sui giornali un esodato. Ora, questo signore tecnicamente non è un disoccupato, si è ritrovato sì senza lavoro perché se ne doveva andare in pensione, ma non riceveva, da quello che abbiamo capito, il sussidio di disoccupazione. Ha chiesto quest'anno l'Ape Social, questa novità appunto che è arrivata... Anticipo pensionistico, in questo caso finanziato dal Ministero dell'Economia perché non sono le banche ad intervenire con il prestito, chiusa parentesi. Ma gli hanno detto no. È corretta questa risposta formalmente dal punto di vista giuridico, naturalmente non dal punto di vista dell'equità sociale. Ecco, esatto, altro paio di maniche. Sì, buongiorno a tutti. Allora, formalmente potrebbe essere giusta, però bisognerebbe entrare più nel dettaglio. Però la norma dice che appunto sono ammessi all'Ape Sociale tra le varie categorie anche i disoccupati che hanno concluso da almeno 3 mesi il sussidio di disoccupazione, in buona sostanza. Quindi sì, intanto bisogna tenere presente che il nostro ascoltatore ha smesso di lavorare nel 2012, la norma è stata scritta nel 2015, quindi c'è uno sfasamento, bisogna vedere appunto come se le due normative sono compatibili, le due condizioni. L'altra cosa c'è che se appunto lui non si è mai iscritto come disoccupato, non ha mai avuto il sussidio di disoccupazione, tecnicamente diciamo che non è uno dei requisiti. L'altra cosa che mi viene da pensare è che poi c'erano delle norme, la cosiddetta rottamazione delle licenze, comunque degli incentivi per chi concludeva l'attività commerciale, adesso bisogna vedere nel dettaglio che attività svolgeva, e ad esempio questo incentivo è incompatibile con l'ape sociale, certo, sempre ribadendo che la norma è del 2015, i fatti sono relativi al 2012, quindi... bisognerebbe capire bene come... Il combinato disposto, esatto, come si dice in diritto. Esatto, come si combinano le due cose. Allora sì. Allora no, volevo però, facciamo il punto, magari esatto. Deborah... Cosa succede questo famoso venerdì 22 sempre, dicembre, no? Che certo. È la data X... Sempre tenendo aperto il discorso dei mutui, perché abbiamo trattenuto in studio, e lo ringraziamo per la cortesia, Roberto Anedda, quindi se avete ancora dubbi sul mutuo, e probabilmente ne avete, abbiamo o qualche domanda, sull'investimento per la casa, siamo sempre disponibili, ma ora ci spostiamo perché stanno arrivando... aspettiamo proprio ad horas i primi assegni di Ape Sociale. Allora l'Ape Sociale, l'abbiamo già ricordato, è riservata solo ad alcune categorie. Quando è che dovrebbero vedere questi assegni, Deborah? Il 22 di dicembre. Il 22 di dicembre, venerdì. Esatto. L'INPS è alle prese proprio con gli ultimissimi conteggi per capire quanti effettivamente assegni devono essere erogati in questa prima tranche, anche perché è un tema importante visto che devono erogare anche gli arretrati, no? Perché si partirà da maggio, me lo confermi Matteo, sì, ce lo confermi? Sì, l'Ape Sociale... la partenza era prevista appunto il 1° di maggio, poi ci sono stati ritardi, problemi burocratici, gestionali, e così appunto si è arrivati alla fine dell'anno, peraltro con le polemiche dell'ultimo mese sull'elevato numero di domande respinte, appunto esatto. Perché i requisiti erano troppo stringenti, perché in molti casi non si riusciva a far dialogare le varie banche dati, ad esempio può essere... magari anche il caso del nostro ascoltatore, cioè c'è il problema ad esempio lo stato di disoccupazione te lo deve oggi diciamo certificare l'ANPAL, l'agenzia delle politiche attive, ecco, ad esempio l'INPS non riusciva a comunicare col database dell'ANPAL, c'erano problemi sui lavori particolarmente gravosi per cui non si riusciva a identificare bene le categorie, perché lì viene chiesta una percentuale di premio INAIL che identifica appunto quella particolare categoria gravosa che dà diritto all'accesso all'Ape Sociale. Quindi insomma tutta una serie di complicazioni operative. Ma poi i parametri sono stati ampliati nel momento in cui c'è stata la contestazione perché erano giudicati troppo rigidi? Sì, il Ministero del Lavoro ha diciamo allentato un po' i cordoni e comunque non sono stati fatti miracoli. Mm. E allora quando è scoppiata la polemica a seguito di un'audizione parlamentare del direttore generale dell'INPS, c'erano state 2 domande su 3 erano state rigettate. Lo stesso direttore generale aveva detto, pur con allargando i cordoni, secondo le ultime indicazioni che abbiamo visto, arriveremo alla metà. E l'INPS sta ancora appunto analizzando molte domande che erano rimaste indietro, che sono state riprese, diciamo, d'ufficio. E diciamo che se arriviamo a metà saremo fortunati. E tutto questo, come dicevamo, per predisporre, no? Lo leggo perché è interessante anche la modalità con cui si esprime quello che avviene in questi giorni, viene predisposto il primo lotto di liquidazioni questo 22 dicembre, Mauro. Quindi sotto l'albero arrivano esatto. Finalmente i primi, avremo i primi apisti, perché anche questo termine brutto abbiamo coniato, sì. Matteo. Esatto, brutto ma aiuta. La grammatica ce ne chiede racconto, lo sai. Di che ammontare di assegni stiamo parlando, Matteo? Allora, l'APE non può essere superiore a 1.500 euro lordi al mese, quindi oltre a quello non si va. Cioè, poi in teoria, vabbè, anche qua ci serve la possibilità di integrarlo, se vuole, la pista. Il problema è che doveva partire l'APE volontaria, perché il meccanismo per integrarlo è quello dell'APE volontaria, anche lì siamo fermi, quindi insomma momento... Abbiamo già ricordato. Ecco, questo è un dato che non abbiamo effettivamente ricordato spesso. Chi è destinatario dell'APE social, che come abbiamo detto è quella, come dire, pagata dalla collettività, non pagata dal singolo, potrebbe però ricorrere anche a una quota di APE volontaria a suo carico. Cioè, se la sua pensione, diciamo teorica, fosse superiore a 1.500 euro, dato che lo Stato invece te ne paga solo 1.500, se tu vuoi puoi attivare un meccanismo integrativo praticamente autofinanziato da te stesso, dal pensionando, col meccanismo dell'APE volontaria, e vai a incrementare, a riaggiungere quello che sarebbe la tua pensione sostanzialmente, ti avvicini di più alla tua futura pensione. Appunto, dato che l'APE volontaria è ferma al palo, questa integrazione la puoi fare. Quindi... No, ma adesso guarda Matteo, abbiamo già detto in apertura di trasmissione, cioè, è imminente la sigla degli accordi è con la settimana decisiva, come quella delle province. Sì, come dice sempre Alessandro Milan, la settimana decisiva anche per l'APE, guarda, sarà. Due di denari. Io lo so che Marco Lombardo questa la mette per me sostanzialmente, è musica dei miei tempi, cara Deborah, beata te che manco eri nata. Buonanotte, sai da quanti anni pago il mutuo io? È da mo' che sono nata. Ma hai fatto un mutuo, non so, ancora minorenne, non so neanche se sia legale questa cosa. Ma figuriamoci. Allora, comunque grazie. Avevo promesso che avremmo dato subito la linea a Bruno per un ragionamento di APE social. E allora, Bruno dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Volevo chiedere, perché io l'11 gennaio compio 56 anni. Sì. A febbraio faccio 40 anni di contributi. Sì. Ho lavoro precoce, usurante, perché faccio l'autista da più di 20 anni. Sì. E volevo capire se rientravo nei parametri dell'APE social o se non c'era il verso di farvi entrare. Grazie Bruno. Tra l'altro, per chi avesse diritto, Matteo, le richieste devono già essere state fatte in modo tale che l'INPS possa completare poi le istruttorie per garantire le erogazioni, oppure è un work in progress? Cioè... Allora, per chi matura il diritto nel 2017, le domande andavano presentate il 30 novembre e adesso si passa al 2018, prima scadenza 31 marzo. Purtroppo il nostro ascoltatore non ha accesso all'APE sociale perché ci vogliono 63 anni. Quindi questione anagrafica, non contributiva. Esatto. Ed è discriminante l'età anagrafica. Senza quello non si parte proprio, diciamo. Al di là poi di trovarsi in una delle quattro categorie. Perché tu devi ma lui non distante. Può avere, scusami Matteo, perdona Deborah. I 40 anni di contributi gli dovrebbero però consentire a questo punto di andarsene e basta, senza anticipi di sorta, o no? No, a 40 no. L'ascoltatore accennava al fatto che precoce, usurato, e quindi mettendo insieme le robe, forse o come precoce, quindi 41 anni ci va, dovrebbe tenere duro un altro anno, oppure come usurato, bisogna adesso con le quote riesce ad andare sommando età e anni di contributi, cosa arriva prima. Quindi gli è precluso il percorso APE. Sì. Ma potrebbe aprirsi in tempi relativamente contenuti un anno e mezzo riesce ad arrivare ai precoci o agli usurati. Della pensione di vecchiaia, quella standard, sostanzialmente. No, arriva l'anticipata, quella tutta con contributi, sì, che sono 41 se sei un precoce o 42-10 attualmente se non sei un lavoratore precoce. Cioè. Povero Bruno non ne può più, parliamoci chiaro, l'abbiamo sentito dalla sua voce, insomma, tra lavoro esurante, precoce e un bel numero di contributi già versati, non vede l'ora di raggiungere il traguardo. Avendo cominciato a lavorare a 16 anni, esatto, possiamo capirlo. Però chissà se avesse anche il mutuo sul groppone, detto questo, magari questo non ce l'ha e quindi potrebbe contribuire questa circostanza a renderlo più sereno. Ce l'ha però Tatiana, che è un po' indispettita invece con le banche, perché qua torniamo ai mutui, Roberto Nedda. Perché lei vorrebbe cambiare ma non ce la fa. Per quale motivo, Tatiana? Perché la respingono? Buongiorno. Buongiorno, Deborah. Piacere. No, niente, stavo proprio a Provvidenza, mi ha portati. Sono uscita, è una settimana che giro dalle banche, sono uscita adesso dalla banca e accendo la radio e sento questo, è incredibile. Praticamente mi sono rimasti ultimi 25.000 euro su 180.000 che era il mutuo. La rata è di 940 euro al mese e ho chiesto alla banca in cui c'è il mutuo di abbassare la rata e mi hanno detto di no. Allora mio avvocato mi ha suggerito la surroga, sono andata a un'altra banca dove ho un altro conto relativo attività e mi hanno detto che non possono accettarmi perché loro minimo possibile è 50.000 euro. Perché l'importo è troppo piccolo, Tatiana. Piccolo, sì. esatto. E quindi cul-de-sac, come l'ho chiamato io, perché non so cosa fare. Poi vi dirò la battuta che fa Sebastiano Barisoni utilizzando questo concetto, ma ve la dico dopo perché dalla bocca paura, di una non signora... siamo alla zanzara. Esatto, dalla bocca di una signora non è divertente, ma potete immaginare. Invertite l'ordine dei... Sentiamo a Ned. Sentiamo Nedda sul punto per aiutare l'ascoltatrice. Sui giochi di parole, ma rimanendo diciamo sul tecnico, allora, sicuramente la gran parte delle banche, per non dire la totalità, di fronte a importi molto contenuti, fanno fatica un po' per i motivi che dicevamo prima, che comunque l'operazione di surroga ha un costo di attivazione per la banca e rispetto a un importo di mutuo così contenuto, le banche nicchiano, molto, possiamo dire. Sì, diciamo che la banca ci ricava troppo poco rispetto alla sua, deve comunque mantenere una sua convenienza economica. Però faccio anche un'osservazione. Bisognerebbe capire in dettaglio le condizioni del mutuo di cui si sta parlando. Però se dai 180.000 euro di capitale iniziali ne sono rimasti solo 25.000, ha pagato io onestamente credo che di rata, per quanto siano 900 e passa al mese, sia quasi tutto capitale ed interesse. Anche facendo una surroga si risparmierebbe poco o nulla per il discorso che dicevamo prima. A meno che non riallunghi di nuovo il periodo. A meno che, esatto. Che infatti era la prima richiesta dell'ascoltatrice. Lei voleva rinegoziare la temporalità, se ho compreso bene. Vuole rendere la rata più leggera. Praticamente l'unica modalità per farlo potrebbe essere quella. L'unica cosa potrebbe essere quella, però effettivamente in caso di importi contenuti diventa difficile purtroppo. E cara Deborah, qui siamo un po' tra l'una e l'altra cosa. Tra l'incudine e il martello. E l'ape, il mutuo nel capo mi tenciona. Perché mi fai abbiamo un sonetto Fabio... così seduta stante? No, no, ho fatto un conio dal grande padre, dal grande padre Dante. Però abbiamo Fabio da Roma sull'ape. Fabio, buongiorno, Fabio. Rapidissimo se riesce. Fabio? Sì, eccolo, pronto. Ecco, Ci dica Fabio, la domanda. Allora, io ho 64 anni e sono disoccupato da 2 anni. Sì. Però non sono stato licenziato e quindi non mi è stata accettata la domanda. Perché praticamente sono disoccupato, risulto disoccupato, ma non essendo stato licenziato non vale la domanda. Ma non capiamo come si concilino le due cose, abbia pazienza Fabio, cioè lei tecnicamente non ha lavoro, sì? Ah, io non è stato licenziato, ho capito, no, si è dimesso. Scusi, mi non mi era chiaro questo. Sì, mi sono dimesso 4 anni fa, sì. Ho provato un'alternativa personale, sì. Non ci sono riuscito e mi sono iscritto alle liste di collocamento. Sì. E sono disoccupato da febbraio 2016. Perfetto, grazie però, Fabio. Sì, sì. Le hanno rifiutato la domanda di APE. Esatto. Esatto. Matteo Prioschi. Sì, perché la norma diciamo che tutela i disoccupati diciamo involontari, cioè chi appunto è stato licenziato piuttosto è ammessa anche la giusta causa, però diciamo non chi smette di lavorare volontariamente e poi appunto si ritrova senza sì, lavoro sì. senza pensione. La norma tutela appunto chi resta senza lavoro sostanzialmente contro la sua volontà. Certo. Allora, Deborah, Paolo, concludiamo con Paolo dalla provincia di Alessandra sui mutui. Esatto, però. No, tra l'altro posso chiedere, Matteo, ma quanti assegni secondo te presumibilmente è in grado di erogare l'INPS in questo primo lotto di liquidazioni? Premettiamo che l'INPS ha già dato la sua disponibilità di intervenire a Due di Denari per raccontarci il punto dettagliato della situazione entro un paio di giorni. Matteo, ma una stima si può fare? Ma forse essere, diciamo, positivi, dato che quando appunto c'è stata questa audizione era stato detto che 13.000 rotte domande erano state accettate e questo era più di un mese fa, si può sperare che queste 13.000 siano state completamente gestite, quindi sia pronto il pagamento. Ecco. Sono pochi, insomma, ma sì. Mi sembra una buona cifretta. Paolo dalla provincia di Alessandria, telegrafico, proprio deve fare la domanda in due secondi. Molto bene, allora anch'io ho iniziato mutuo ad aprile 2003, sono un caso simile alla signora di prima, è di circa 110.000 euro, e mi più o meno una quota capitale rimanente di circa 30.000, però io ho cercato di rinegoziare con la mia banca, che è una banca molto simile alla San Paolo, quindi non voglio, vabbè comunque, e mi hanno fatto un po' di... Così, che non conviene più, insomma la storia la di restare con loro. Gli mancano 5 anni, è tutto capitale, la banca cosa ti fa, le condizioni migliori su che cosa? Te lo può allungare un altro po'? Cioè, no, come dicevamo prima, essendo una durata residua molto ristretta, gli interessi su cui si può risparmiare sono pochi, bisognerebbe vedere anche qui che tasso ci si porta appresso dal 2003, però provare a insistere eventualmente per allungare un po' la durata, sì. di modo che si spalma la rata su qualche anno in e più, si alleggerisce anche se la poi rata. Si pagano un pochino più di interessi. Infatti si ritorna caso. A pagare. Allora, grazie Roberto Anedda, grazie a Matteo Prioschi, a tutti voi che ci avete seguito. Due Denari torna domani alla solita ora. Domani di cosa ci occupiamo, c'è Deborah? C'è Investire Informati, abbiamo con noi anche l'amministratore delegato della Borsa Italiana, Raffaele Ierusalmi, che ci racconta questo 2017 di Piazza Affari. Sei contento? Sono contentissimo, vengo col taccuino come al solito. A domani.